Io sento che tutti sono finiti, hanno fatto 4-3 tempi in Iraq, sono molto stanchi, hanno un sacco di paura e Bush non ha aiutato molto quelle persone che sono andato a casa, che sono andato negli Stati Uniti, quindi è molto importante che c'è qualche persona, qualche presidente nuovo che può aiutare queste persone che viene in America, e già tempo per queste persone negli Stati Uniti di tornare. Quindi il fatto che Obama abbia annunciato un progressivo ritiro dall'Iraq è un elemento importante nella scelta di voto perché come lei ha la divisa. È già tempo per ritornare a casa, è già tempo per Iraq di fare da solo, che loro vogliono fare da solo. Per voi il fatto che Obama abbia detto che è giunto il momento di tornare a casa è un elemento che porta a votare Obama? Sì, anche per me, ma la cosa più importante è l'economia, le cose per le scelte per le persone, tipo aborto e tutto quello. Per me è molto importante che io ho votato per il mio partito, io sono democratico, io di solito sempre votare per il democratico, perché sono così, perché per me è molto importante la scelta, i diritti più umani per tutte le persone, e questo è una cosa molto importante per me. Non, la guerra in Iraq non era molto importante per me, era importante ma non era la prima cosa che pensavo io.